Pronto? Pronto, vabbè, insomma, siamo qui, miracolosamente entrati a gas, veramente una cosa straordinaria. Adesso mi trovo al Gallery, che è una sorta di bar aperto all'aperto, al centro di Gaza City. E è in corso una festa meravigliosa, ci sono decine, 200 persone, principalmente oltre il gruppo, veramente il nutrito gruppo di italiani che riusciva a attraversare il confine, italiani non solo, è presente, diciamo, tutta la rappresentanza di Gaibo, come lo chiamiamo qua, noi lo chiamiamo Gibo, Gaza Youth Breaking Out, sono i ragazzi che sull'onda delle rivolte nel Maghreb, nel Nord Africa, hanno dato vita a delle straordinarie manifestazioni qui a Gaza, non solo, anche a Ramallah, ahimè pesantemente represse. Vittorio Arrigoni, per cui siamo qua e che ancora crea umanità, crea rapporti, relazioni, lui è come se fosse qui, ha supportato questo movimento di giovani tantissimo, e infatti abbiamo qua, stiamo vedendo dei video, sentite sul sottofondo musica di Bella Ciao, hanno fatto un rap bellissimo, la prima volta che vedo un gruppo di rapper Gazzawi, che hanno fatto una cosa deliziosa sulle note di Unadikum, che è una canzone classica palestinese, che in qualche modo ringrazia coloro che hanno donato la propria vita per la causa palestinese. Ecco, questa musica adattata a un testo rap che parla proprio di Vittorio, con un refrain proprio con il nome di Vittorio, una cosa che è molto ben fatta, devo dire, al di là delle aspettative, e vi dico, sta un po' emozionato, oggi è stata una giornata straordinaria, veramente oltre ogni previsione siamo riusciti a passare quel maledetto valico di Rafa in modo velocissimo, siamo stati fermati lungo la penisola del Sinai, cioè lungo il deserto del Sinai, una penisola dove sono andato, e siamo stati fermati dai checkpoint diverse volte, però poi alla fine, quando siamo arrivati al ridosso del valico di Rafa, miracolosamente le cancellate si sono aperte e i due pullman carichi, a posto di circa 80 persone provenienti dall'Europa, principalmente dall'Italia, sono riusciti a entrare a Gaza. È stata un'emozione fortissima, ci ha accolto poi dall'altra parte un gruppo di persone, testanti, televisioni, fotografi, e quant'altro, e questo gruppo straordinario di giovani che veramente sono la speranza per una Palestina, per una rivoluzione culturale in Palestina che sicuramente porterà a qualcosa di buono. Sentire sullo sfondo, vi faccio sentire, è avvicino, è allontanato, stanno continuando a festeggiare, a urlare il nome di Vittorio. Qui, aspetta, ve lo faccio sentire in diretta. Vivo Vittorio, e vivo Vittorio, evidentemente è vero, perché è qua insieme a noi che fuma un narghile.